Amore, tu, amore, ho pensato di te se non sogno niente. Amore, tu, amore, se você voltar eu saio do boteco. Amore, tu, amore, ho pensato di te se non Yeah, yeah.